In collegamento telefonico l'autrice e attrice Tiziana Scrocca per parlare del progetto Sulle tracce di Ulisse, dal 24 al 31 luglio a Cefalonia e Itaca. Tiziana, ben trovata. Ci Ciao, bentrovati a te Federico e a tutti quanti. racconti? Allora sì, questo progetto è nato un anno fa, che ho incontrato a Cefalonia Francesca Bossi e Dimitri Gagliazzato, che è un artista cefalonita, che hanno una bellissima casa appunto a Cefalonia. La loro casa spesso è una residenza artistica, fanno dei laboratori di scrittura di viaggio, di fotografia. E quindi niente, io lì nella loro casa ho fatto un anno fa il mio spettacolo, I fili di Penelope, perché era proprio un terrazzo naturale al tramonto, meraviglioso, hanno come un teatro a cielo aperto. E da lì è nata l'idea di fare questo progetto, di portare invece delle persone a Cefalonia e fargli fare un percorso sull'Odissea. Quindi ogni giorno noi porteremo le persone in giro per l'isola e racconteremo delle storie dell'Odissea, i luoghi significativi, i luoghi che hanno un'attinenza con quella narrazione. Quindi racconteremo, che ne so, il viaggio e le avventure del mare proprio sulle falesie di Palinki, racconteremo la creazione invece dal monastero di Agriglia, dove c'è proprio un rapporto cielo-terra che sembriamo un po' all'inizio del mondo. E poi dopo tutto, diciamo, un 6 giorni dedicato all'Odissea, al viaggio, al ritorno, all'aspirazione di Itaca. L'ultima sera arriviamo appunto ad Itaca e lì ci sarà lo spettacolo proprio nella capitale di Itaca con il comune, che ha dato il patrocinio e sta collaborando con noi perché si sono appassionati a questa idea. E ci sarà lo spettacolo che sarà in italiano e in greco, cioè una parte tradotta prima per il pubblico greco e poi lo spettacolo in italiano per gli italiani, insomma. E quindi è così, un viaggio avventura e nel mito, nella riscoperta delle storie dell'Odissea, no? E anche il senso che hanno ancora oggi, perché ancora è una storia potente che ci parla, che ci riguarda, insomma, non è solo un discorso accademico, ma proprio sono delle storie che ci muovono e commuovono. Quindi sarà una settimana così di bagni, di viaggi, di scoperte, ma anche proprio di narrazioni e spettacoli ogni sera al tramonto. Senti, e quanti in scena, quante persone? In scena siamo due Due, fondamentalmente. ok. Io che faccio l'aedo e Roberto Mazzoli che fa il musicista. Gli aedi sapevano anche suonare, io no, però abbiamo un ottimo musicista che farà appunto l'accompagnamento musicale con più strumenti, buzuki, chitarra, strumenti a corde varie e percussivi, no? Cercando di riportare un po' i suoni, le atmosfere. Quindi siamo noi due in Ok, scena. sì. Quindi letture drammatizzate? No, non sono letture, sono No, proprio narrazioni. Io narrazione. racconterò tutta l'Odissea da diversi punti di vista, da diverse vie, no? Faccio principalmente il primo giorno ci sarà i miti sulla creazione del mondo, i vari miti sulla creazione del mondo, i miti legati comunque alla cultura greca, sulla creazione del mondo. Poi ci sarà una narrazione legata appunto al tema del viaggio, le avventure, le prove, gli errori che fa Ulisse, cosa impara. C'è un'altra stazione che è dedicata invece alla nostalgia e alle tentazioni, quindi gli incontri che lo tentano, che l'allontanano, ma anche la nostalgia di casa. E poi altre stazioni sono legate al tema della morte, l'orrore e la meraviglia, che secondo me sono un po' i temi che tornano nell'Odissea, la nostalgia, perché il viaggio del ritorno, ovviamente della nostalgia, ma lui si scontra anche con l'orrore dei mostri che incontra, delle creature extraumane che incontra, con la meraviglia, e il suo viaggio è un po' un recupero della propria umanità attraverso delle esperienze estreme. Quindi ogni giorno c'è una stazione che è legata a un tema e viene riraccontata l'Odissea. Non sono letture, no, sono delle vere e proprie narrazioni. E poi Narrazione. l'ultimo giorno c'è lo spettacolo I fili di Penelope, che è uno spettacolo ormai da 10 anni, insomma, che è l'Odissea dal punto di vista di Penelope, di chi stava a Itaca. Dato che a Itaca sarà Penelope, troveremo Penelope. Allora nel post sul blog metterò anche il link che rimanda allo spettacolo nella versione radiofonica che hai fatto. Sì, è vero, infatti l'ho fatto lì tanto tempo fa, è stato un momento bellissimo, ancora ce l'ho la registrazione custodita gelosamente, tra l'altro che l'ho mandata in Grecia per farla sentire la prima volta a Francesca. Vedi? Vedi che torna tantissimo. Tiziana, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Per i contatti e tutto e allora si può contattare il www.ilnaufragarmedolce.it, che è la mia associazione culturale, la mia compagnia teatrale, se no anche contattare direttamente me, 349-8683-823, il mio numero. Sulle tracce di Ulisse a Cefalonia Itaca dal 24 al 31 luglio, un ringraziamento e un abbraccio a Tiziana Scrocca. Anche Tiziana, a presto, in bocca al lupo e ci vediamo. Vabbè, prestissimo. Grazie. Ciao. Ciao Federico, ciao.